Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Parleremo di spaghetti alla margherita, intesa come hack, fra poco. I titoli e poi incominciamo. Una straordinaria scienziata, una pessima cuoca e una scadente giocatrice di scopa. Ricordiamo insieme Margherita Hack. Le nuove tecnologie, le smart city, gli ambienti intelligenti nei quali siamo immersi, come produrre le leggi che li devono regolare. Il premio Lagrange è il riconoscimento internazionale dedicato alla scienza dei sistemi complessi. Quest'anno è stato assegnato al fisico e sociologo australiano Duncan Watts. Allora Chiara, senti, qua con noi c'è Corrado Lamberti. Ciao Corrado. Ciao. Giornalista di scienza, astronomo, e insieme a Margherita Hack lui ha una lunga avventura editoriale con una rivista Astronomia di cui vi diremo fra poco l'importanza e il significato. Però Corrado ha vissuto fianco a fianco a Margherita. Amico, lo possiamo dire. Certo. Assolutamente. E anche al marito Aldo, no? Loro due erano assolutamente indissolubili. Allora ti dicevo, Chiara, io e Corrado a Festival di Genova. Al Festival della Scienza di qualche anno. Esatto, di qualche anno fa siamo stati protagonisti di un episodio, lui poi in particolare, che credo Corrado possa raccontarci com'era l'animo proprio di Margherita. Io non c'ero, raccontatemelo. Allora, sta a sentire. C'era una conferenza sull'astronomia, quella vecchia, e Margherita doveva raccontare come si faceva, no? Ricerca negli osservatori negli anni 40-50, no? E poi invece a te, Corrado, toccava dare uno scenario di quello che l'astronomia attuale, l'astronomia contemporanea, e Corrado aveva preparato una bella relazione, però l'editore dell'astronomia aveva messo un premio che era un bel telescopio, mi ricordo, piuttosto bello, no? Per chi il premio? Era un premio che veniva estratto, e avevamo davanti 500 persone. Ah, perché, tra il pubblico? Sì, sì, perché sì. Margherita, come si muoveva, come minimo aveva 500 persone. Infatti. E veniva estratto perché il pubblico aveva dei numerini in mano. E allora cosa facciamo? Bendiamo Margherita. Ah, beh, certo. La bambina. Ma l'hai bendata tu, ti ricordi? Io non me lo ricordo. D'aver fatto anche questo, che la povera donna. La bendiamo. Viene estratto il telescopio, il numero, riconosciamo la persona, è contenta, e poi però io dico, ma adesso entriamo nell'astronomia contemporanea, e lui parte con una bellissima relazione. E Margherita rimane bendata. Insomma, ce la siamo dimenticati bendata. E lei è rimasta al gioco. È rimasta bendata per quasi un quarto d'ora. Al che io ho detto, non sapevo cosa dire, perché se a quel punto la sbendavamo nel silenzio più totale, insomma, era una figuraccia. Allora ho detto, forse è meglio dirlo esplicitamente. Ho detto, Corrado, forse è meglio sbendarla. Io mi sono girato e l'ho vista bendata ancora. Lei non aveva detto niente. Era, questo era davvero il suo carattere, cioè era assolutamente una pasta di... Ma di, poi di... autoironica, lei si divertiva ad essere presa in giro, la prendevi in giro quando giocava a scopa, che era veramente un cane, e perdeva con i miei figli, e diceva, vedete qui questa grande scienziata, poi non è capace di fare le somme. Corrado era sempre ospite a Trieste da Margherita e da Aldo, il marito. Allora, nel loro osservatorio, sì, dove lavoravano. Nella casa, sì, osservatorio. Nella casa osservatorio, la casa del direttore, che era attigua all'osservatorio. Allora, io ho detto all'inizio, spaghetti alla Margherita. Sì, perché io sono rimasto sconvolto le prime volte che ci andavo, perché per loro mangiare era essenzialmente una perdita di tempo. Cioè bisognava fare ricerca, bisognava portare avanti l'osservatorio, mangiare era una cosa del tutto secondaria. Margherita staccava dall'osservatorio, rientrava in casa, ma più che altro per dare da mangiare ai suoi gatti. Ah, beh, certo! E comunque, già che c'era, mangiavano qualcosa anche loro. Allora la prima volta si mette lei ai fornelli, dice, facciamo un po' di spaghetti, sì, va bene. E allora ecco la ricetta degli spaghetti alla Margherita. Prendete una pentola d'acqua fredda, prendete gli spaghetti, metteteceli dentro, ponete il tutto sul fuoco e accendete e aspettate che siano cotti. Aveva tante altre doti, ma quella della massaia no. È incredibile. Anche... Dopodiché bisognava scolare gli spaghetti. Beh, non avevano ancora scoperto lo scolapasta. No, perché Margherita vuotava nel lavandino l'acqua calda e Aldo con due forchette tratteneva gli spaghetti. Poi li distribuiva un filo d'olio toscano sopra e quelli erano pronti. La sera bisognava stare più leggeri. Allora la sera diceva facciamo la pastina. La minestrina. E la pastina era una pentola d'acqua fredda. Sì. Si prendevano gli stessi spaghetti a mezzogiorno, gli si spezzava in 4-5 parti, li si metteva freddo, si metteva sul fuoco, cuocevano, venivano redistribuiti un filo d'olio toscano, era la pastina. Che roba tremenda. Dal secondo giorno ho detto, d'ora in avanti faccio da mangiare io. Ed è stato quando hanno scoperto spaghetti, aglio, olio e peperoncino che impazzivano dalla gioia. Portati tu. Sì, gran gourmet. Gli ho comperato una scatola di peperoncino, gliel'ho fatti, l'hanno voluto per 2 o 3 giorni di seguito. Ma la cosa bella è che alla fine della settimana Aldo mi telefona e dice dove hai comperato il peperoncino perché l'abbiamo finito, un barattolo pieno. Dice ma noi non venivano molto bene perché ci venivano neri, cioè, li bruciavano completamente. Però ne avevano consumati in 3 giorni un barattolone. Un barattolone. Dopodiché devo dire che Margherita è migliorata negli ultimi anni. Vabbè, insomma, aveva altre doti. Ma allora era una cosa pazzesca. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Stiamo parlando di Margherita Hack con Corrado Lamberti, che insieme a Margherita Hack ha diretto per quanti anni, Corrado? 23 anni. 23 Caspita. Anni. Questa rivista Astronomia, che è un caso nell'editoria scientifica italiana e non solo italiana, no, devo dire, però estremamente importante. Perché? Perché Astronomia ha avuto un ruolo fondamentale per intanto divulgare a tanta gente, è una divulgazione medio-alta, è sempre stata, a tanta gente ciò che è l'universo, l'astrofisica, l'astronomia, però ha anche formato, come dire, ha spinto, ha creato emozioni in tanta gente giovanissima che leggendo l'astronomia poi si è dedicata alla ricerca in astronomia e, Corrado, dobbiamo ricordare che gli italiani in questa area di ricerca sono assolutamente di primo livello. Una scuola mondiale. D'astronomia straordinaria abbiamo. Abbiamo dirigenti in vari laboratori in varie parti del mondo. Esatto. Devo dire che loro sono anche molto molto bravi perché hanno delle caratteristiche divulgative straordinarie. Chi ha incontrato Corrado o Margherita lo sa, sono persone, Margherita lo era, veramente straordinarie che ti lasciano una bocca aperta ascoltandole, parlando di stelle grande e della loro materia. Grande empatia, direi, divulgativa. Però non era assolutamente, questo dobbiamo dirlo, no? Compreso invece dal mondo della ricerca dell'astronomia la funzione di questa rivista. E lei con te invece aveva intuito. Sì, sì. Questo è un rimprovero che io faccio da sempre al mondo dell'astronomia italiana, di non capire qual è l'importanza di avere, di conservare, di rafforzare una rivista di divulgazione che va in edicola. Sì. Io continuo a dir loro che se i matematici, i fisici, i biologi avessero una rivista di quel tipo che va in edicola al grande pubblico, farebbero i doppi salti mortali per la gioia. Gli astronomi ce l'hanno e non se ne rendono conto. Margherita lo capì al volo. Quando le venne proposto di fare una rivista per il grande pubblico, anche se quella rivista era gestita da una casa editrice che nasceva ad hoc, senza esperienza, anche se l'avrebbe poi fatta un povero diavolo, il sottoscritto che non aveva... Allora, eri giovanissimo, era appena laureato in astrofisica. Un'esperienza editoriale alle spalle, niente. Le piacque così tanto l'idea che si buttò a pesce, si giocò il suo nome, si giocò il suo nome, che era già un nome grosso, importante, mettendolo nelle mani di persone che di esperienze ne avevano poco, ma di entusiasmo tanto, e questo le bastava. E qui si vede la sua capacità di essere un intellettuale molto collegato anche a questioni tipo sociale, di politico-culturale, perché capiva l'importanza di uscire dal proprio territorio. Senti, un ultimo episodio che ci raccontavi prima di fare questa intervista. come nasce il rapporto tra di voi? Ti hanno sottoposto, perché c'era anche Aldo, no? Ha un piccolo test, però significativo. Sì, sì. Ho fatto il colloquio. Questa è bella, molto bella. L'ho già raccontata questa storia, ma è l'emblema della grandezza di quei due personaggi. Voi dovete immaginare questo povero trentenne, senza esperienza, che si presenta davanti a un'icona, perché già era così, Margherita, e va incontro a un esame, che è un esame da far tremare polsi, ginocchia, perché eccetera. Era l'inizio della rivista. All'inizio, era il mio primo incontro. Andavo con un'idea di rivista, dovevo proporla certo. A loro. E beh, sì, mi lasciano parlare un attimo, poi mi fermo e mi dicono, guarda, facciamo una cosa, ti diamo due articoli. Leggili con calma e domani dici cosa ne pensi, quali pubblicheresti e quali no. Va bene, io prendo gli articoli. Uno degli articoli l'avevano scritto loro, ecco. L'aveva scritto Margherita, e un altro un grande astrofisico sovietico. Ritorno il giorno dopo e mi dice, allora cosa pensi, quella che potremmo pubblicare? Ah, ma avevano detto, mi raccomando, in tutta sincerità. E vabbè, io vado e dico, ma questo di Slowski lo pubblicherei volentieri in ogni numero della rivista, perché è straordinario. Quest'altro Margherita, anzi allora la chiamavo ancora professoressa, quest'altro io non lo pubblicherei. Mi abbracciarono. Oh, sei sincero, andremo giusto. D'accordo per tutta la vita. Perché ma loro avevano dato a lui, chiaro, un articolo che già loro avevano giudicato loro... brutto. L'avevano scritto, avevano fatto un trabocchetto. L'avevano rifiutato e volevano vedere se ero sincero e se ero bravo. Ecco. Ma la grandezza di queste persone è di trasformare l'esaminando in esaminatore, per metterlo a suo agio. Giovanissimo e completamente senza stato e senza autorevolezza. Grazie Corrado, credo che gli episodi sarebbero migliaia. Abbiamo lasciato un po' fuori tutto l'universo dei 18 gatti. sì. E anche di un cane, certo. Che mi ha raccontato che lei difese perché lo stavano per far fuori. Se... lo comprò dai ragazzi, no? Che lo stavano un po' massacrando, sì, lo stavano massacrando. E lei se l'è tenuto in casa. Grazie Corrado e buon lavoro. Grazie davvero. Grazie. In questo grande fiume di nuove tecnologie nel quale siamo già entrati, ma soprattutto ci si troverà immersi nei prossimi anni, scenario del quale fanno parte anche e tanto tutti i progetti Smart City, in questo grande nuovo sistema di vita, come siamo messi con le regole, il diritto e quindi la produzione di leggi, perché ovviamente il problema esiste. Se ne è discusso in un convegno a Milano, convegno che Moebius ha seguito, c'è stata una tavola rotonda finale alla quale hanno partecipato addetti ai lavori in diversi campi, compresi quelli di grandi aziende tecnologiche, che naturalmente sono fra gli attori principali di questo problema della regolamentazione delle cose. Sentiamo Alessandra Rosa Maturo di Ericsson e il problema da lei posto, il telelavoro, ovvero quella modalità organizzativa molto aperta per cui un'azienda si organizza in modo che i propri dipendenti, che lavorano molto spesso a gruppi, si organizzano con proprie tempistiche, utilizzando tutte le tecniche che oggi consentono di incontrarsi via computer, di parlarsi, vedersi e scambiare materiale, e fare tutto questo a volte vedendosi in ufficio, altre connettendosi da casa. Come si sono mossi in Ericsson? Sul telelavoro noi abbiamo fatto un'esperienza. Abbiamo cominciato comunque dal 2007 con una sperimentazione con circa 38 persone in Ericsson in Italia. È stato un esperimento, diciamo, che è andato molto bene. Ovviamente la tecnologia era pronta, è pronta, quindi non è un problema connettere da remoto le persone, non è un problema fare sì che le persone possano lavorare ormai ovunque, come se fossero in ufficio. È un po' più complicato invece il processo per poter mettere queste persone in telelavoro, anche ecco, dal punto di vista normativo e regolatorio. Infatti cosa serve? Allora, bisogna innanzitutto andare a casa della persona e verificare che ci sia un ambiente idoneo perché questa persona possa lavorare da casa, perché ovviamente l'azienda è responsabile, deve avere cura della propria persona, sia se lavora in ufficio sia se lavora da casa. Quindi bisogna fare un'ispezione, vedere che ci sia un ambiente adatto. Ambiente vuol dire veramente tutto, cioè dalla scrivania, dalla sedia, all'illuminazione che sia messa in una maniera opportuna, quindi diciamo tutto il contesto. Dopodiché va ovviamente fornita alla persona della tecnologia, casomai non l'avesse, quindi ovviamente un collegamento a larga banda, modem, stampante, quant'altro. quant'altro. Eccoci qua. Certo, si può fare una visita a casa per introdurre alcune condizioni di fondo, ma non nascondiamoci che una delle comodità del telelavoro è anche quella di sdraiarsi sul divano in mutande e scrivere al computer, no? Infatti, ancora la Maturro, sempre di Ericsson. Noi effettuiamo annualmente un questionario per valutare appunto la soddisfazione delle persone. Questionario che è rivolto alle persone che sono in telelavoro e ai loro manager, quindi per avere, diciamo, il quadro completo, e sia loro sia i loro manager sono assolutamente soddisfatti. Che poi ci ricorda come il telelavoro abbia importanti ricadute ambientali. Risparmiamo, cioè produciamo 700 tonnellate di CO2 in meno, che equivale praticamente, per assorbire, per farvi capire di che stiamo parlando, per assorbire una tale quantità di anidride carbonica ci sarebbe bisogno di un bosco di 70 ettari, che vuol dire 100 campi di calcio piantati a bosco. Tuttavia, regole e legislazioni devono comunque interessarsi di questo genere di problemi. Amedeo Santosuosso, giurista, giudice a Milano e direttore delle CLT dell'Università di Pavia, il centro che in Italia si interessa e fa ricerca sui rapporti fra ambienti intelligenti e legislazione, le CLT, è stato l'organizzatore del convegno. Ecco, Amedeo Santosuosso la pensa così. Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza, però, c'è stato appena detto che vengono fatti dei sopralluoghi, vi è una qualche forma di responsabilizzazione sul fatto che la postazione, sia pure domestica, di lavoro risponda a determinati requisiti. Poi si possono stabilire dei limiti che siano intrinseci al sistema tecnico, per esempio per le ore lavorate, no? Che per esempio una macchina non deve essere in attività lavorativa per più di X ore, perché sennò possiamo immaginare degli eccessi. Sono possibili degli accorgimenti tecnici. Certo è che cose di questo genere, secondo me, possono funzionare per fasce di forza lavoro dove l'aspetto della forza contrattuale intrinseca della persona è abbastanza elevato, no? E allora significa che la persona ha una notevole capacità di gestire la propria posizione lavorativa come singolo. Questi sono lavoratori che sono in una posizione contrattuale forte. Per questo tipo di figure professionali non avrei remore per il telelavoro. Così come non avrei remore se vengono recuperate occasioni di lavoro per persone che altrimenti sarebbero fuori dal mercato del lavoro, perché sarebbero impossibilitate al fatto di spostarsi da casa. Quindi dobbiamo anche entrare in un ordine di idee che prevede la capacità di fare delle differenze, di introdurre una regolazione più fine, diciamo così, di una realtà che presenta forti cambiamenti. Sentiamo Cristina Farioli di IBM, alla quale è stato anche chiesto se per i tanti progetti smarsiti che la sua azienda ha messo in campo lavorando con le amministrazioni pubbliche, le risulta che si sia parlato di normative. Devo dire che nonostante i 4 anni di attività, le 170 città che abbiamo toccato, i 3.000 progetti nel mondo che abbiamo in corso, l'interazione costante che abbiamo anche con la pubblica amministrazione centrale nel dibattito dell'agenda digitale, ad esempio, devo dire che questi temi non sono stati mai sfiorati, ma forse perché siamo ancora, come dire, in una fase di progettazione, in una fase di inizio. Non siamo ancora riusciti in Italia ad aver visto una trasformazione completa di città in una città smart, come intendiamo noi. Una città in cui diversi servizi, le diverse funzioni interagiscono, il cittadino interagisce e collabora, quindi abbiamo un sistema territoriale integrato. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Stiamo parlando di ambienti intelligenti, smart city, definizioni di leggi che regolamentino questo grande scenario che si sta delineando. Cristina Farioli di IBM ci stava raccontando di come nei progetti in corso su tematiche smart city con amministrazioni pubbliche di regolamentazioni di leggi di fatto non si parla. Lo si dovrebbe fare, ma non dobbiamo sorprenderci, perché la vicenda è tutt'altro che semplice. Infatti, ancora Cristina Farioli di IBM introduce un tema che ha un peso particolare. Tutto il cambiamento che stiamo vivendo ci sta portando in un'era che definiamo digitale, che è un'era invasiva, pervasiva. Allora io penso che le categorie del diritto tradizionale non siano più valide, quindi la domanda che oggi si pone non può essere letta e interpretata con categorie di diritto appunto tradizionale, perché io credo che le variabili che si chiamano tempo, spazio e proprietà, lasciatemi dire proprietà intellettuale, in questo mondo che è digitale cambiano completamente. Allora, abbiamo parlato di telelavoro e in realtà siamo in una fase ancora più avanti, perché i nuovi temi che si pongono è quello del co-working o nomadic work, il che vuol dire che non abbiamo soltanto il dipendente di un'azienda che si collega da casa, ma abbiamo queste nuove realtà che magari si fanno anche per dare la possibilità alle nuove start-up di poter iniziare un'attività con un collegamento alla rete, con un minimo di spazio, magari in una scuola di proprietà pubblica che viene utilizzata da parte del comune per avere degli introiti da offrire a queste realtà emergenti. Allora, il tema del co-working è un tema complesso, perché tutti sono in uno stesso contesto, sono aziende che magari sono adiacenti e competitive, e io credo anche che queste tecnologie di tipo digitale o questa realtà digitale pone un altro aspetto, il tema della collaborazione, il tema della condivisione, non più della separazione, e questo è un altro tema fondamentale. Il nomadic work vuol dire che io su un'applicazione mobile col mio iPad posso decidere dove, come, quando e perché lavorare. Però a noi piace anche ricordare un altro aspetto fondamentale, se ritorniamo ancora alle città, il diritto gratuito di accesso alla rete deve essere un diritto fondamentale per una città innovativa, così come io ho il diritto alla scuola e all'asilo nido, devo poter avere il diritto di accesso alla rete. E nel momento in cui entro nella rete si innestano altri diritti, tra cui anche il fatto che diventi un cittadino digitale. E il cittadino digitale forse va oltre i confini di una città fisica. Ma attenzione, una smart city non può essere un luogo dominato solo dalle tecnologie digitali, ci sono altre modernità. Sentiamo Cristina Tajani, assessore all'innovazione e alle smart city del Comune di Milano. Penso che una delle tematiche che hanno a che fare con la nuova fase dell'organizzazione urbana, diciamo un nuovo ciclo di urbanizzazione o di urbanesimo, non so come chiamarlo, sia che nello stesso territorio e quindi nello stesso spazio urbano convivono o possono convivere diversi sistemi di attori. Esiste un sistema di attori che è più legato ai flussi globali, quindi con capacità, diciamo, di connettersi al mondo molto elevate, con capacità di scambiare merci, informazioni, capitali molto elevato, quindi molto connettivo e anche molto competitivo. Questo sistema di attori dà vita ad un sistema che è anche spazialmente discontinuo, cioè non necessariamente circoscritto nel territorio della città, ma ha i piedi nella città e ha le braccia o i rami, diciamo, nel mondo. Ora, il punto, diciamo, più problematico anche per un amministratore locale è che nello stesso territorio convivono poi altri sistemi di attori che magari non hanno la capacità, diciamo, competitiva o la connettività per agganciarsi a questi flussi, diciamo, a queste reti. Questi attori danno vita a organizzazioni o, diciamo, dimensioni territoriali molto più ancorate al territorio, diciamo, e meno ai flussi, che corrono di più il rischio di rimanere esclusi dalla competizione globale a cui la città, diciamo, partecipa. E io penso che il tema di governance, che ha a che fare con la questione di una smart city, perché io sono convinta che una smart city non sia una città semplicemente una città digitale e una città tecnologica, ma una città che è capace di utilizzare intelligentemente anche le opportunità tecnologiche per far convivere senza conflitto o senza, diciamo, esclusione reciproca diversi sistemi di attori, appunto, che sono quelli che hanno più radici sul territorio, meno capaci di distaccarsene, quelli che invece partendo dal territorio competono per il mondo. Se torniamo alle nuove tecnologie, poi, quali devono essere i criteri che garantiscono le migliori opportunità? Ascoltiamo Renato Gagliano, direttore per lo sviluppo economico e innovazione, Università Smart City del Comune di Milano. Molte di queste cose si potranno fare e riusciremo a farle in tenendo conto che questo concetto che veniva anche citato prima della tecnologia si basa non su tecnologia proprietaria, ma si basa sull'open source. Perché questo toglie un freno enorme che è il proprietario della tecnologia. Se questa diventa invece proprietà di tutti o comunque tutti contribuiscono allo sviluppo del sistema tecnologico, è evidente che questo ha un livello di diffusione molto più ampio, sia a livello di software sia a livello di hardware. Altra materia affatto banale da regolamentare, ma una delle cose più complesse da maneggiare è la copresenza in uno stesso territorio di tanti livelli di interazione, sempre Renato Gagliano. E l'altro elemento su cui voglio sottolineare la complessità, perché questo significa anche calibrare i progetti, sono le scale territoriali. E qui si è già citato il livello micro e quindi il progetto sul quartiere, sulla comunità se non è il quartiere, ma poi le comunità risiedenti nelle varie città sono in contatto tra di loro e così via. Quindi da un lato si arriva sino ad un livello micro, ma dall'altro questo richiede un livello di, come venivano chiamate alcuni anni fa, reti lunghe a livello nazionale o sovraregionale. Appositamente per questo, ad esempio, il Comune di Milano ha firmato un protocollo con Torino e Genova, perché ci sono determinate tematiche che vanno affrontate su una scala territoriale più ampia, ma forse anche a livello molto più alto. E lo sviluppo delle reti, di alcuni network di città internazionali e non solo europee, di cui anche Milano fa parte, danno proprio il senso che ci sono degli elementi che sono come i layer che devono essere tenuti insieme, ma che viaggiano su logiche che coinvolgono soggetti che vivono nello stesso luogo ma che guardano ad orizzonti diversi, e per cui il piano che stiamo facendo, la strategia che vorremmo venisse fuori da questo lavoro condiviso è esattamente questo, cioè il tenere conto del livello micro e a layer diversi sino ad un livello di carattere internazionale. Non a caso una delle relazioni del 19 aprile, quando abbiamo perso questo percorso, chiamava in causa la Global City, e quindi il locale e il globale insieme. E qui, attenzione, non ci può essere una autorità centrale nella quale risiede l'intelligenza del tutto. Ancora Cristina Tajani, assessore alle Smart City del Comune di Milano. Non è l'amministrazione che deve diventare intelligente o il comune, è il sistema territoriale rappresentato dai produttori o i produttori di tecnologie, le organizzazioni dei cittadini, il sistema del sapere universitario, scientifico, diciamo il sistema della ricerca, provando ad integrare gli interessi di questi attori diversi magari su progetti specifici. Due importanti notazioni finali del giurista, ovvero Medeo Santosuoso. La prima. È normale, in qualche modo, che il diritto venga dopo, no? E che la tecnologia, la scienza, spinga per l'innovazione e il diritto venga dopo. In qualche modo non ci si deve meravigliare. L'importante è che il diritto non crei problemi inutili. Ecco, allora per esempio io sul fatto che in Italia per registrarsi a una rete wifi è necessario dire anche di chi sei figlio, di chi era tuo nonno, via dicendo, trovo una follia assoluta. La seconda notazione, che è bene tenere presente, perché convergenze e differenze sono sempre due atteggiamenti che devono coesistere. Vorrei semplicemente che non si passasse dal fatto che la legge è la legge, il diritto in generale è estraneo alla tecnologia, al fatto che si chieda al diritto di fare quello che la tecnologia chiede. Sicuramente va intensificato il traffico di comunicazione e conoscenza, ma alla fine può la legge non essere allineata esattamente alla tecnologia, per cui essere in dialogo, utilizzare, ma nello stesso tempo conservare la propria autonomia. Insomma, come avrete notato, argomenti molto interessanti, ma certo non facili da maneggiare. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il premio Lagrange, assegnato ogni anno dalla Fondazione ISI, l'Istituto per l'Interscambio Scientifico, fondazione basata a Torino, è un premio che viene assegnato alle ricerche sulla complessità. Ve ne parla Alberto Agliotti. Alessandro Vespignani, cos'è il piccolo mondo? È quella proprietà delle reti sociali per cui tutti siamo molto vicini, cioè con sei strette di mano si arriva al Presidente degli Stati Uniti, per arrivare a qualunque persona in Cina non servono più di 4, 5, 6, 7 amici, è in qualche modo questo mondo iperconnesso sociale che abbiamo creato. Allora, Alessandro Vespignani è direttore scientifico della Fondazione ISI, Fondazione ISI che ogni anno assegna il premio Lagrange per la scienza della complessità, premio Lagrange che quest'anno è andato a Duncan Watts, fisico e sociologo australiano e autore della teoria del piccolo mondo. Duncan è la persona che è riuscita a formalizzare matematicamente in un modello questa proprietà e quindi ha aperto poi il campo a tutti gli sviluppi scientifici degli ultimi 10 anni della teoria delle reti che poi applichiamo e viviamo quotidianamente dentro Facebook, dentro Twitter, dentro i social network e in più come la comprensione delle grandi infrastrutture, di tutto quello che è rete, il mondo che ci circonda. Duncan Watts è appena stato premiato qui a Torino e allora senza nemmeno attraversare i 6 gradi andiamo direttamente da lui a stringergli la mano. Duncan Watts, cos'è che spinge un fisico che studia matematica a diventare sociologo? Studiavo alla fine degli anni 90 la matematica delle reti. E poi man mano mi sono reso conto che c'erano comunque delle dinamiche, ho studiato delle dinamiche che erano dinamiche sociali, come per esempio la circolazione delle informazioni, il contagio delle malattie, la diffusione di informazioni che potevano creare o essere alla base della gestione anche di momenti critici o delle crisi che mi interessavano appunto sempre di più ed erano dei fenomeni sociali. Quindi che cosa ho fatto? Man mano ho cercato di traslare gli strumenti che avevo appreso nei miei studi matematici per andarli poi ad applicare ma anche a sviluppare e ad evolvere nell'analisi e nello studio dei comportamenti sociali e quindi delle dinamiche sociali umane. La fisica studia la natura, la materia e quindi studia un qualcosa che presumibilmente è costante nel tempo, insomma almeno che conosciamo così com'è e cerchiamo di approfondire. Le dinamiche sociali sono invece qualcosa che si evolve continuamente, si complica e non solo. Studiando un gas si studiano milioni di atomi o molecole che interagiscono però fra di loro tutti secondo le stesse leggi. Studiando una società si studiano milioni di persone che invece interagiscono fra di loro ognuno con un suo comportamento. In effetti le dinamiche umane sono in costante cambiamento perché sono per così dire un obiettivo mobile continuamente in movimento e che oltretutto anche cambia non solo per le interazioni interne e naturali all'interno delle dinamiche sociali umane ma anche perché studiandole cambiano anche perché sono oggetto di studio, soggetto di studio. Come dicevo prima, gli atomi non hanno la possibilità di cambiare se noi li studiamo o li comprendiamo, non c'è questa interazione, rimarranno gli stessi nel comportamento, mentre le persone, le reti sociali cambiano anche perché sono soggetto di studio. Ecco perché la sociologia non può essere la fisica, ecco perché la fisica deve probabilmente anche avere un'interazione con la sociologia e va bene così, non, ci sono delle punti di incontro, ci sono anche però dei punti diversi di osservazione che possono portare a conoscere di più quello che conosciamo. I nuovi strumenti di interazione sociale, pensiamo a internet, ma anche agli smartphone, insomma tutte le informazioni che adesso possiamo scambiarci, hanno permesso sicuramente negli ultimi anni di studiare la complessità delle dinamiche sociali sulla base di un numero di dati enorme che prima non c'era. Però questi stessi strumenti, se da una parte ci aiutano a capire questa complessità, dall'altra non è che la aumentano? I think that it's true that these new technologies, è vero che aumentano sicuramente la complessità dell'indagine, la complessità anche dell'interazione, della comprensione, ma anche è vero che con tutta questa generazione di dati ci danno anche una possibilità positiva di avere appunto più dati sui quali indagare, da osservare, da comprendere, quindi maggiori possibilità di comprensione e di analisi di quello che succede. Col vostro gruppo vi siete occupati anche di scienza del successo, cioè cos'è che determina il successo di un dato evento, prodotto? Ci può dire qualcosa? We showed through experiments, sì, abbiamo visto che man mano studiando appunto i casi di successo e di insuccesso esiste una sorta di ineguaglianza del successo. Molto spesso, o in gran parte dei casi, siamo portati a pensare che il successo attenga a una cosa migliore, a qualcosa che veramente merita il successo. Ma in effetti non è così. Gran parte delle persone influenzano le scelte degli altri, quindi guidando la popolarità o l'impopolarità di un prodotto, di un mercato, perché aumenta la disuguaglianza, l'inuguaglianza per così dire del successo, ma anche la variabilità di ciò che ha successo o potrebbe non aver successo. Quindi non sempre ciò che ha successo in effetti è qualcosa che merita di avere successo. But it's obvious. Questa è una risposta di senso comune. Era il caso di dedicare del tempo per studiare questa cosa? Sì, lei sta cercando di irritarmi, però in effetti può sembrare ovvio, ma non è così ovvio, perché se lei dice a una persona che Harry Potter, il successo di Harry Potter oppure di Apple, di Steve Jobs, è soltanto un accidente nella storia, le persone non le crederanno, le diranno che non è assolutamente così ovvio, che è qualcosa che è legato invece ad una causa ben precisa. People do not think that is common sense. They think it's wrong. Io scherzavo con Duncan Watts a proposito del fatto che lui stesso raccontava di come gli studi sui sistemi complessi portino a risultati che sembrano considerazioni di senso comune, sembrano quasi scontate, ma in realtà non è così. It's true that the thing is that there are In effetti però ciò che è ovvio e ciò che non è ovvio può essere relegato in modo sottile, quasi invisibile, no? Si dice che qualcosa, si osserva qualcosa e il commento è dalle persone, ma questo è ovvio. Però se poi si dice alle stesse persone, si rappresentano le informazioni e i risultati di qualcosa che è reputato ovvio e quale tipo di risultato può generare anche in termini casuali, allora tutto questo non è ovvio. E questo in effetti è il punto cruciale, no? Come andare a legare queste due cose o come andarle a interpretare, la sottigliezza, il filo sottile che le lega e il fatto che cose apparentemente ovvie possano in effetti generare dei risultati che non sono assolutamente scontati. Vale la pena sicuramente studiare il senso comune. Assolutamente, vale la pena studiare il senso comune perché è qualcosa che abbiamo tutti noi all'interno, abbiamo così tanta anche intuizione rispetto al comportamento umano che a volte non lo studiamo abbastanza e questo in effetti è qualcosa invece che merita il nostro focus perché può sviluppare degli ulteriori campi di indagine. Grazie Duncan Watts. Thank you. Grazie. Alessandro Vespignani, 30 anni di Fondazione ISI, 10 anni di progetto Lagrange, dedicato allo studio dei sistemi complessi, la scienza dei sistemi complessi. Qual è il bilancio di questo periodo? Quali sono le nuove sfide e quali sono i risultati ottenuti? 30 anni che hanno fatto e significano tanto lavoro, si è partiti da modelli teorici, da modelli matematici, si è poi visto il loro valore, si sono finalmente riusciti ad applicare e adesso entriamo in una nuova era, l'era dei grandi dati, che ci permette di acquisire quei dati che messi dentro i modelli possono finalmente darci quei poteri previsionali, quei poteri quantitativi, quell'analisi su che cosa sta succedendo al corpo sociale, alle infrastrutture, ai sistemi tecnosociali, ai grandi problemi della sanità. Come? Guardando appunto ai dati che ci arrivano e che tutti noi produciamo costantemente con i nostri telefonini, con le nostre conversazioni, mettendoli in relazione con i dati che arrivano dalla mobilità, dalla spazialità, con i modelli che sono stati sviluppati nel mondo della complessità. Finalmente apriamo un nuovo mondo dove possiamo fare scienza importante per i prossimi 10, 15, 20 anni. Quindi la complessità, il sistema più complesso che studiamo alla fine siamo noi e le nostre relazioni e il nostro modo di stare al mondo. Indubbiamente noi siamo il sistema più complesso, siamo un complesso di reti interdipendenti in cui la parte sociale, le reti sociali hanno poi, come si dice, fanno la parte del leone, perché in qualche modo rappresentano poi tutte le proprietà adattive, tutte le proprietà di reazione, mentre se io faccio delle previsioni meteorologiche la tempesta tropicale non ha nessun interesse a sapere qual è la mia previsione. Nel momento che io in un sistema sociale faccio delle previsioni, quel sistema sociale reagirà, la cosiddetta flessibilità di questi sistemi, e questo complica il problema scientificamente, allo stesso tempo lo fa molto più affascinante, allo stesso tempo lo fa ancora più importante, perché in qualche modo se noi vogliamo capire come si svilupperanno i grandi aggregati urbani, come si diffonderà la prossima pandemia nello spazio e nel tempo, dobbiamo riuscire a in qualche modo scardinare questi problemi scientifici. Chi studia i sistemi complessi oggi ha a disposizione una grandissima quantità di dati che arrivano dalle nostre interazioni su internet, per esempio, ma anche dai nostri spostamenti fisici, dagli acquisti con la carta al supermercato, dai biglietti aerei, eccetera. Questo sicuramente è un bene per la ricerca, però pone delle questioni di privacy e di trasparenza nell'uso di questi dati. Sicuramente, questo purtroppo avviene sempre con la scienza. La scienza ogni volta che produce dei grandi risultati, produce dei risultati che possono essere usati in maniera positiva e in alcuni casi anche in maniera negativa. Ovviamente tutti noi vogliamo dare i nostri dati, vogliamo esponiamo i nostri dati. In realtà c'è voglia di condividere quello che siamo, lo vediamo nei social network, lo vediamo nelle conversazioni che quotidianamente abbiamo su Facebook, su Twitter e così via. Allo stesso tempo dobbiamo stare molto attenti. Questi dati sono da una parte preziosissimi, sono quelli che ci permettono adesso di prevedere i picchi dell'influenza stagionale, che ci permettono di prevedere come si sposterà nello spazio e nel tempo la prossima pandemia, ma allo stesso tempo possono, come dire, sollevare problemi etici e di privacy molto, molto forti. Ed è qui che ci vuole proprio una nuova comprensione da parte di chi fa politica, di chi fa policy making, del potere di questi risultati scientifici e di queste nuove avventure scientifiche. Perché in qualche modo dobbiamo regolamentare queste cose in modo che tutto sia il più open possibile, in modo in cui tutti possano accedere a questi risultati, e questo evita in qualche modo tutti i rischi di manipolazione che uno può pensare. Grazie. Grazie mille. Mi raccomando, qui tutti e tutte fra 7 giorni. Buona settimana da Möbius.